Le putte di coro, Venezia, matria di musica femminile. Nel 1700 la Repubblica di San Marco non era più una potenza economica e politica di primo piano. Già dal 1500, infatti, Venezia aveva perso la sua posizione di predominio negli scambi commerciali con l'Oriente, e ciò era accaduto per via dello spostamento del commercio internazionale verso gli oceani, ma anche a causa dell'espansione coloniale degli altri stati europei. Nel 1718, con la pace di Passarowitz, il trattato sottoscritto tra l'imperatore Carlo VI e il sultano Ahmed, con il quale si pose fine al conflitto fra monarchia asburgica e impero ottomano, la Serenissima dovette rinunciare ad ogni suo possedimento oltremare e ai conseguenti traffici marittimi. L'Austria, sua alleata contro i turchi, l'aveva abbandonata e tradita. Di conseguenza, l'unica speranza era puntare su una neutralità disarmata, cosa che fece e funzionò molto bene fino agli anni Ottanta del Settecento, permettendo a Venezia una politica di risanamento di bilancio, messo a dura prova da tutti gli anni di guerra dei primi del secolo. Il Settecento, quindi, è il secolo in cui volge al termine la millenaria storia della Serenissima Repubblica di San Marco. Nel Settecento Venezia moriva, ma lo faceva in maniera splendida. Prima di approdare a questa ultima fase, infatti, la città si pose ancora sulla scena internazionale, in una stagione di favolosa bellezza, espressa nei campi più disparati dell'arte e della cultura. Ma soprattutto la Venezia del tardo 600 e del 700 diventò per sempre la città della musica. All'inizio dell'epoca moderna, il crescente aumento della povertà nell'Europa occidentale fu dovuto agli sconvolgimenti economico-sociali e l'ulteriore aggravamento del contesto fu poi causato dall'insorgere di carestie e della peste. A questo quadro sociale davvero preoccupante, i governi cercarono di porre rimedio con la creazione di appositi istituti che sancirono il passaggio da una forma di carità occasionale a un approccio sistematico al problema. In Italia nacquero organizzazioni sia laiche che cattoliche impegnate sul fronte comune dell'assistenza alle fasce più deboli. A Venezia questo impulso dette vita alla riqualificazione di quelli che erano stati definiti ospedali: l'ospedale dei derelitti, l'ospedale dei mendicanti, l'ospedale degli incurabili e l'ospedale della Pietà, il più antico di tutti. Gli ospedali, ai tempi delle crociate, erano nati come ostelli per i pellegrini, ma in seguito, dalla fine del 1500 fino agli inizi del 1800, si trasformarono in orfanotrofi e istituti di accoglienza. Quella, o per meglio dire anche quella, fu un'epoca in cui dilagava la prostituzione e di conseguenza molte neonate e neonati, prole illegittima di relazioni inconfessabili, venivano lasciati alle porte degli ospedali. Qui le bambine accolte ricevevano un'istruzione religiosa e imparavano sia a leggere che a scrivere, ed anche a svolgere lavori domestici, ma soprattutto apprendevano l'arte della musica e del canto. Fra il 1600 e il 1700, lo straordinario livello di eccellenza raggiunto dai cori contribuì a fare di Venezia uno dei più importanti centri culturali e musicali del periodo, e gli ospedali divennero meta ambita di regnanti e personalità di tutta Europa che arrivavano fino a lì per godere il gusto sublime del canto delle fanciulle e l'impeccabilità celestiale delle loro esecuzioni musicali e strumentali. La riqualificazione dei quattro ospedali veneziani all'inizio del Seicento rese possibile la nascita di luoghi di socialità femminile unici nell'Europa moderna. Gli ospedali veneziani non erano propriamente conventi né scuole di musica, erano comunità musicali in cui convivevano donne e ragazze di origini sociali diverse. All'inizio le cosiddette figlie di coro, ovvero le fanciulle che venivano indirizzate alla musica e al canto, erano tutte orfane. tranne quelle della pietà, che erano bambine esposte da genitori di cui non si sapeva nulla. Ad esse poi si univano operaie e malate che potevano provenire da contesti assai diversi. Nel 1700 poi ci fu una progressiva professionalizzazione delle musiciste, che venivano accettate dopo aver sostenuto un'audizione d'esame, e questo contribuì ancor più a variegare la comunità che coabitava negli istituti. Anche se la maggior parte delle coriste veniva da famiglie modeste, l'introduzione nei cori delle allieve a spese, cioè paganti, produsse un importante incrocio sociale nella comunità interna degli ospedali. Qui vivevano priora, maestre e figlie di coro, ma anche operaie, malate, vecchie e infine il personale amministrativo dell'istituto stesso, a cui periodicamente si univano patrizi e cittadini veneziani che avevano un forte peso nella comunità, in quanto finanziatori di molte opere caritatevoli e celebrazioni musicali. Il più affollato e prestigioso dei quattro ospedali era la Pietà, tanto che nel 1700 arrivò a ospitare più di un migliaio di persone. L'ospedale della Pietà, fondato nel 1346, sorgeva sulla riva degli Schiavoni, di fronte all'isola di San Giorgio Maggiore, una delle molte isolette che formano la laguna veneziana. L'edificio originario era una chiesa molto più piccola di quella attuale, con le cantorie, cioè le nicchie nelle quali si sistemavano le coriste, alloggiate sopra l'altare maggiore. La chiesa, vista da fuori, era piuttosto disadorna. Il vero fascino della Pietà, infatti, si trovava all'interno delle sue mura, perché lì accadeva qualcosa di speciale. In quel luogo umile, che odorava di legno antico e cera d'api, quando le musiciste insieme cominciavano a suonare, pare si creasse un'atmosfera talmente bella che sovente venivano aperte le porte affinché la musica potesse diffondersi fino nella strada per essere goduta dai passanti. E si dice anche che le gondole si fermassero per gustare l'incanto del momento. L'originaria chiesa della Pietà aveva un'acustica perfetta. La seconda chiesa della Pietà, quella progettata dall'architetto veneziano Giorgio Massari, nonostante fosse molto più grande e fastosa, abbellita anche da un affresco di Giambattista Tiepolo, non riuscì mai a rendere la solita atmosfera incantata, forse proprio a causa della sua acustica peggiore. Ciò era dovuto al fatto che le cantorie erano disposte lateralmente e quando partivano le voci con la musica si creava addirittura un eco fastidioso. La Pietà aveva la missione di accogliere quei putei bandonai, i bambini abbandonati di entrambi i sessi. Le madri ponevano figlie o figli neonati in una scaffetta, una specie di nicchia, e poi se ne andavano, spesso per sempre. Solo un segno di riconoscimento, chiamato marca, rimaneva per le loro creature, come un simbolico cordone ombelicale che non si spezzava e ricordava loro di essere nate o nati da una madre vera nel mondo, fuori da quella chiesa. Questi oggetti potevano essere delle carte da gioco, crocefissi, orecchini, pezzi di stoffa, immagini sacre che venivano divisi a metà. Una rimaneva al bimbo o alla bimba, l'altra l'avrebbe tenuta la madre e in un futuro sperato da tanti sarebbe stato il segnale di appartenenza per potersi ritrovare. L'archivio storico della Pietà possiede una vasta raccolta di questi segnali di riconoscimento. Gli orfani e le orfane dell'ospedale crescevano separati. I maschi venivano educati ai mestieri, le femmine a filare, cucire, prestar servizio e anche a fare canto e musica. Queste ultime diventavano le celebri putte, ossia fanciulle, di coro della Pietà, che seppero toccare l'anima anche alle persone più scettiche, facendo della musica non un'esibizione, ma un racconto capace di parlare al cuore di ogni ascoltatore. Le ragazze dell'ospedale della Pietà si riconoscevano per i loro abiti rosso granato, o rosso melograno, mentre le orfane dei derelitti vestivano di bianco, quelle degli incurabili di azzurro, quelle dei mendicanti di marrone scuro. Le loro giornate alla Pietà seguivano un ritmo rigoroso. All'alba, prima che Venezia si destasse, nella cappella regnava il silenzio, perché ognuna si doveva concentrare nella preghiera. Poi arrivava il mattino e con esso lo studio. Le allieve, oltre che la musica, imparavano anche a leggere, a scrivere, a parlare con proprietà di linguaggio, a ragionare. Il centro sostanziale della loro vita, però, era lo studio dello strumento, anzi degli strumenti. Infatti, esse venivano formate come polistrumentiste e sapevano suonare il violino così come la viola d'amore, la tiorba, il violoncello e anche gli strumenti a fiato non mancavano nella loro preparazione musicale. Il pomeriggio era il momento più atteso, però, perché c'erano le prove di orchestra e qui ognuna si univa alle altre. Una melodia cercava un'altra affine, un ritmo trovava la sua cadenza, una voce si accendeva e poi tornava a fondersi con il coro. E la musica diventava un organismo unico che legava ciascuna. La musica in quei momenti non era più un insieme di strumenti, ma diventava corpo unico, era un ponte che collegava una storia all'altra, una ferita all'altra. Le note erano le loro parole non dette e i sogni inconfessabili. La musica era la loro lingua madre. Molte di loro non esistevano fuori dalla Pietà, non avevano un nome riconosciuto, un posto nel mondo. Ma quando sollevavano i loro strumenti, tutto cambiava. Lì, fra le note degli spartiti, trovavano un luogo dell'anima da abitare e una famiglia a cui appartenere. E così, ogni nuovo esercizio diventava una soglia e ogni scala una salita, affrontati con dedizione e costanza. Le note potevano dire ciò che le parole non riuscivano a contenere. L'organico della Cappella della Pietà era formato da 18 cantanti, una decina di strumentiste per gli archi, due organiste e un paio di soliste. Tuttavia, in occasioni solenni, l'orchestra poteva raggiungere dimensioni ben maggiori, soprattutto nelle sezioni a fiato e fra le cantanti. L'educazione delle figlie di coro era straordinariamente completa per l'epoca e le loro esecuzioni musicali divennero famose in tutta Europa. Nobili, intellettuali e musicisti facevano tappa a Venezia per assistere ai loro concerti. Le musiciste, fra l'altro, in osservanza delle rigide norme morali di allora, suonavano nascoste dietro fitte grate o tende. Anche gli applausi non erano consentiti, perché sinonimo di peccaminosa vanità, per cui fra gli astanti si era creato un codice comunicativo particolare per esprimere il loro grande apprezzamento. Al posto degli scroscianti applausi che avrebbero voluto fare, gli spettatori si spostavano sulla sedia in modo un po' rumoroso o si schiarivano la voce con colpetti di tosse. E quello era il loro modo per dire alle ragazze: magnifico! Anche la pratica del tenere celate le putte, paradossalmente, non fece che aggiungere loro un tocco di fascino e mistero, alimentandone la notorietà. Il 1703 fu un anno fondamentale per le putte di coro della Pietà, perché i governatori dell'istituto nominarono il giovane sacerdote Antonio Vivaldi, dispensato dagli obblighi ecclesiastici per le sue precarie condizioni di salute, insegnante di violino e poi di viola all'interno dell'ospedale. Fra Vivaldi e le ragazze si creò da subito una sintonia speciale, perché lui seppe riconoscere le loro grandi doti e la passione per la musica vissuta come necessità per esistere, per amare, per gioire dell'essere venute al mondo nonostante tutto. Vivaldi considerò le figlie di coro più che delle semplici esecutrici. Lui iniziò a scrivere brani per loro, calibrando la composizione sulla base del talento e del carattere musicale di ciascuna. E inoltre si prodigava a comprare per le ragazze nuovi strumenti e corde di qualità. Nel 1711 gli venne affidato poi l'incarico di maestro di coro, ovvero massimo esponente musicale della Pietà, incaricato di comporre anche musica sacra. Le putte della Pietà si sentirono riconosciute e supportate da questo maestro, che scrisse per loro concerti per archi, sinfonia e musica liturgica. Negli archivi dell'istituto, poi, sono emersi anche documenti che attestano come diverse ragazze fossero diventate compositrici, scrivendo loro stesse la musica per sé e pare anche per Vivaldi stesso. Alla Pietà si era creata col tempo una comunità musicale unica, la cui musica cominciò a viaggiare, prima nelle calli di Venezia, poi nelle lettere dei viaggiatori stranieri e poi nelle corti europee attraverso copie delle sue partiture. Il mondo piano piano iniziò a parlare della Pietà non come un luogo di carità, ma come un luogo di eccellenza. Le prime esibizioni pubbliche delle putte avvennero nella cappella dell'ospedale ed erano soprattutto messe solenni e parti di rappresentazioni liturgiche. Eppure quegli eventi diventarono appuntamenti molto attesi da tutta Venezia. Le ragazze, dietro le alte grate di ferro battuto, caratterizzate dal motivo decorativo del fiore di melograno, simbolo iconografico dell'Immacolata, considerata la loro protettrice, anche senza essere viste, risultavano indimenticabili. Gli archi e dopo i fiati, il basso continuo e poi le voci che si innalzavano al di sopra dell'orchestra. Tutto prendeva forma in modo sublime, in quella chiesa umile che si specchiava nelle acque placide della laguna. Chiamate le rosse del prete rosso, come veniva chiamato Vivaldi, per più di un secolo furono il fiore all'occhiello della Serenissima, citate dai grandi estimatori ed estimatrici di musica sia a Vienna che a Londra. E la nobiltà europea, di passaggio a Venezia, non poteva andarsene senza prima essere passata ad ascoltarle. Vivaldi rimase con loro fino al 1740. In seguito ebbero altri maestri, ma quel livello di affinità animica forse non fu più toccato con nessuno. Fino ai 16 anni, l'educazione musicale era prevista per tutte le orfane della Pietà. In seguito, le più proficienti, che significa talentuose, potevano proseguire per altri 5 anni lo studio approfondito della musica e degli strumenti, mentre le altre rimanevano all'interno dell'ospedale in qualità di operaie. Una volta raggiunta la maggiore età, le putte potevano sposarsi, rinunciando per sempre alla carriera musicale, oppure rimanere vergini e vivere per tutta la vita come monache, insegnando alle più giovani. Quelle che decidevano di rimanere ricevevano un trattamento privilegiato, cibo migliore e più sostanzioso, diritto alle cure mediche se necessarie e anche la possibilità di venire ospitate presso famiglie patrizie per esibirsi durante la stagione estiva. Le più brave poi venivano anche pagate per le loro esibizioni. Chi pensava di sposarsi doveva mettere da parte i soldi per la dote. Diverse volte accadeva però che le giovani si tirassero indietro rispetto al matrimonio, forse perché la scelta di rinunciare a tutta la loro, musica era troppo dolorosa. E tutto sommato, anche uscire dall'ospedale non significava acquisire una piena libertà, ma piuttosto entrare in un'altra comunità, quella familiare, che avrebbe dettato loro delle regole e imposto coercizioni e soprattutto continue gravidanze. Una scelta non tanto diversa da quella di alcune pittrici o di molte fanciulle che al matrimonio preferivano monacarsi per poter studiare ed evitare gravidanze continue, soprattutto nelle comunità spirituali guidate dalle badesse illuminate come le medievali Hildegard di Bingen o Erhard di Landsberg, di cui ci siamo occupate come scuola delle donne. Tornando alle putte, preferivano appartenere solo alla musica, con la quale si erano costruite un'identità, arrivando anche a ricrearsi una sorta di cognome, quello che la vita aveva tolto loro. Essendo trovatelle, infatti, le putte non possedevano un cognome, ma i maestri di coro, assegnando le parti da eseguire, annotavano nelle partiture i loro nomi associati allo strumento del quale erano virtuose, facendolo sembrare quasi un titolo nobiliare. E così conosciamo Bernardina del violin, Caterina della viola, Lucrezia del violon, Maria Rosa del violon, Adriana e Prudenza della tiorba, Tonina dell'organo e Fortunata cantora. Anna Maria, detta del violin, fu la migliore allieva di Vivaldi, virtuosa del violino, nonché primo violino del coro. Sapeva suonare anche il clavicembalo, il violoncello, la viola d'amore, il flauto, il mandolino e la tiorba. Il suo eclettismo strumentale e un'abilità musicale fuori dal comune le fecero meritare una fama a livello internazionale e l'apprezzamento di alte personalità in visita a Venezia. Il suo grande talento fu chiaro già all'età di 8 anni. Il suo nutrito repertorio è conservato attualmente all'interno del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Anna Maria nacque nel 1696 e visse 86 anni. Si dice che fu Vivaldi stesso ad acquistarle il primo violino, riconoscendone precocemente la grande bravura, e per lei compose 24 concerti. La musicista non mancò di collaborare anche con altri compositori di alto livello, come Giuseppe Tartini, che, pur senza essere maestro di coro, collaborava con gli ospedali veneziani, soprattutto con i mendicanti. Anna Maria rimase tutta la vita alla Pietà, dove raggiunse anche l'incarico massimo di maestra di coro e fu considerata, in quel periodo, miglior violino d'Italia. Essendo anche compositrice, esiste la possibilità che alcune opere attribuite a Vivaldi fossero in realtà frutto della sua ispirazione e creatività. E chissà se anche nelle celebri 4 stagioni non si fosse nascosto il genio creativo di Anna Maria, unito a quello del prete rosso. Chiara del violin. Era stata abbandonata all'età di 2 mesi e rimase per tutta la vita all'interno della Pietà, diventando una bravissima violinista e violista. Dagli archivi sono emersi, con il suo quaderno musicale, brani che eseguì con l'orchestra della Pietà. Fu allieva di Anna Maria e per lei furono scritti bellissimi concerti che esaltavano il suo tocco leggero e veloce. Da povera orfanella si trasformò in virtuosa strumentista, conosciuta in tutta Europa. Chiara fu anche protagonista di un moto rivoluzionario all'interno dell'ospedale, quando, dopo Vivaldi e Martinelli, arrivò un maestro di coro che non soddisfaceva le aspettative dell'orchestra. Lei si scontrò in modo risoluto con la priora e per un periodo dette vita a una sorta di autogestione delle musiciste. Altre valide musiciste furono Michielina della Pietà, prima organista e rinomata violinista nell'orchestra del Conservatorio, dove insegnò e compose a partire dal 1726. Agata della Pietà, la quale non poté suonare, giacché nacque senza 4 dita della mano sinistra, ma in compenso diventò un soprano solista molto apprezzato. Insegnò canto e diventò direttrice della scuola. Compose salmi e mottetti e per una sua allieva, una solista contralto di nome Gregoria, attiva a livello musicale tra il 1746 e il 1777, scrisse un testo pedagogico intitolato Regali per Gregoria. Infine, Vincenta da Ponte e Maddalena Laura Lombardini Sirmen non furono trovatelle, ma studentesse di nobili origini, che si iscrissero regolarmente alle scuole di musica degli ospedali veneziani, traendo grande profitto da quella eccellente formazione artistica. Vincenta diventò cantante e concertista nella seconda metà del 1700. Compose anche 4 danze, il cui manoscritto è custodito nel Conservatorio di Musica Benedetto Marcello a Venezia. Maddalena Laura Lombardini Sirmen costituisce un caso a sé stante perché ebbe un'eccezionale carriera come compositrice ed esecutrice insieme a suo marito e firmando le sue opere a suo nome proprio. Maddalena nacque a Venezia nel 1745. Non studiò alla Pietà, bensì in un altro ospedale, i Mendicanti, che la trasformò in una delle più apprezzate e sensibili musiciste italiane del Settecento. Violinista, compositrice, clavicembalista e cantante. Nella seconda metà del Settecento fu una delle poche concertiste di fama internazionale e si esibì nei maggiori teatri d'Europa, da Parigi a Londra, da Dresda a San Pietroburgo. Maddalena proveniva da una famiglia di aristocratici decaduti, non di musicisti. Ciò non le impedì di essere comunque accolta a 8 anni in quella che ormai era considerata una delle più famose scuole musicali di Venezia. Il suo talento straordinario le meritò la fama di protagonista nei più grandi teatri d'Europa, accanto a musicisti di indiscussa notorietà. Il suo maestro fu Giuseppe Tartini, che inviò alla giovane Maddalena una lettera, rimasta negli annali della musicologia, in cui le indicava gli esercizi da eseguire quotidianamente per una perfetta padronanza del violino. La lettera a Maddalena rimane uno dei primi documenti didattici sul violino proprio nel periodo del passaggio di questo strumento da semplice componente d'orchestra a solista e virtuoso. Maddalena coltivò il suo grande talento e perseguì con tenacia una sfida davvero difficile per una donna, quella di imporsi in un ambiente che raramente accettava musiciste e soprattutto compositrici. L'eccezionale considerazione di cui godette fu dovuta sicuramente al talento, ma anche alla fama di Venezia come fucina di artiste. Nanna El Mozart, sua contemporanea, sicuramente le era accanto con l'anima di un artista che invece non poté esprimere il suo genio creativo musicale, poiché il padre glielo impedì, come abbiamo delineato in un docuvideo di cui lasciamo il link in descrizione. L'antagonismo tra compositori e musicisti era feroce. Le donne, in grado di sopravvivere alle discriminazioni di genere che abbiamo raccontato in una trilogia di cui lasciamo il link in descrizione, erano pochissime e proprio per questo fu ancora più raro il caso di Maddalena, che fu apprezzata non solo come violinista e cantante, ma anche come compositrice, come dimostrano le numerose edizioni stampate delle sue opere. Maddalena si sposò a 22 anni col violinista e compositore Lodovico Sirmen, con cui viaggiò e suonò in tutta Europa. A Parigi, nel 1769, 24enne, Maddalena compose i 6 quartetti per archi, che sul frontespizio recano il nome del marito prima del suo, ma che furono in realtà completamente una creazione di lei. A Londra, nel 1773, 28enne, diede alle stampe i 6 concerti per violino, opera 3, Maddalena contribuì a traghettare la musica dal barocco al classicismo. Quando la sua musica cominciò ad essere considerata superata e la sua carriera a declinare, tornò a Venezia, dove lasciò il corpo nel 1818, a 73 anni. Oggi il contributo artistico di questa compositrice viene ricoperto grazie alla valorizzazione della musica del Settecento. La sua musica viene finalmente discussa in convegni e inserita nei programmi dei concerti. In conclusione, fino alla caduta della Serenissima nel 1797, nessun posto al mondo fornì alle donne un'istruzione musicale così accurata e rigorosa come quella degli ospedali veneziani. Le putte di coro, con l'universalità della loro fama, che dalla laguna si espandeva a macchia d'olio fino all'Atlantico e al Mar Baltico, rappresentarono un fenomeno straordinario e irripetibile in tutta la storia della musica. E, come fari inestinguibili, indicarono la strada maestra del talento, coniugato alla dedizione, alle giovani allieve di scuole e conservatori di tutto il mondo. Oggi l'edificio dell'Ospedale della Pietà ospita ancora una chiesa e un orfanotrofio. La musica Nonostante non sia più il cardine intorno a cui girano tutte le attività, continua a risuonare fra quelle mura, per chi sa ascoltare, come eco di un passato glorioso e testimonianza di un'eredità culturale straordinaria, di cui fecero parte anche le donne.